io voglio dire questo al generale. Lei, generale, in questo momento deve alzare le mani e si deve arrendere. Ma si deve arrendere davanti a un plotone di medici! Perché lei, ma lei è uno stronzo! Lei è un emerito stronzo! Ha capito? Va, lei è un emerito stronzo! E perché non viene qui davanti a me a parlare? Lei è un emerito stronzo! Ha capito? Lo dirò nei miei video, dirò che lei è un emerito stronzo, la zanzara del cazzo! Lei è la zanzara del cazzo, ha capito? Allora ragazzi, caro David, cosa è successo nella puntata di ieri sera, a parte Pappalardo naturalmente, della trasmissione della Sciarelli, chi l'ha visto? A un certo punto, in un servizio che era stato registrato, la giornalista della trasmissione rivela ai genitori del figlio, genitori di un ragazzo accusato dell'omicidio di Noemi Durini, il fidanzato naturalmente di questa Noemi Durini, rivela che in realtà il figlio ha confessato e che soprattutto hanno trovato la ragazza morta. Passano delle ore e questo servizio viene mandato durante la registrazione di Chi l'ha visto. Sentite. Le voglio dire quello che mi stanno, che sta uscendo in questo momento. Dica. Hanno trovato la ragazza. Beh, non sono contento. È morta. No! Morta, e Lucio ha confessato. Questo mi arriva, non so altro. Vedo mia. Vedo mia. Esasperato, mio Cristo. Sua madre ha mandato gente di Taviano per ammazzarlo. Hanno creato un mostro, è il mostro. Hanno creato un mostro perché noi, famiglia, hanno creato un mostro. Noi il mostro se l'è mangiati tutti. Noi non volevamo sua figlia, non l'accettavamo. Maledetti. Hanno mandato gente di Taviano per ammazzarlo. Sul bar c'erano tutti gli amici, un tossico hanno mandato per ammazzarlo. Lui ha detto sempre che non sapeva nulla. Non sapeva nulla, sempre ripetendo, sempre queste cose, sempre queste cose. Biagio è finita, dai. Ora siamo morti dalla famiglia. Mi dispiace. Siamo morti! Contenti! Contenti! A mio parere è un grandissimo momento di TV verità, la TV verità. Però ci sono polemiche naturalmente, la RAI può mandare in onda una cosa di questo tipo, può mandare in onda la tragedia, è come se fosse la D'Urso, diciamo la verità, è una no, cosa tipica della niente, D'Urso. Ma dai. Sono due generi, ma sono due generi completamente diversi, quella fa un programma giornalistico di... quello Chi l'ha visto è storicamente da 30 anni un programma che si occupa di queste cose. Sì, qui, ma non manda mai, non ha mai mandato in onda cose di questo tipo. Ma comunque io la difendo questa cosa qua. Io difendo il fatto che sia stata mandata in onda una cosa che era esattamente la TV verità, cioè la presa no, in la diretta. Ma che c'entra questo col servizio pubblico? Ottimo, hanno fatto una trasmissione. Diciamo la verità, avesse fatto la D'Urso una cosa di questo tipo, a parte che poi oggi pomeriggio c'è stata la madre lì che ha fatto un casino tremendo, ma avesse fatto la D'Urso una cosa di questo tipo, cioè il momento in cui arriva la notizia alla famiglia che il figlio ha confessato l'omicidio della fidanzata e la fidanzata è morta, avrebbero creato un casino, avrebbero fatto un culo così la D'Urso sfrutta il dolore, la televisione del dolore, eccetera. Ma non hanno alterato la verità, cioè il ma tema che è cazzo tutto c'entra, ma nessuno tutto dice qui. Niente ma quello, ma che c'entra? Cioè questa è una trasmissione giornalistica, si occupa di queste cose, e che devono vabbè fare? Hanno fatto il loro dovere, hanno fatto di mandare in onda questa cosa, avranno sentito l'ufficio legale, non capisco perché quando la RAI ne fa una giusta bisogna massacrarla per forza, veramente non capisco, è una cosa incredibile. Ragazzi, manca un giorno, domani, che anche il mio compleanno tra l'altro è il 15 settembre, cosa succede che già, oltre... Domani sono 56, no? No, 51, voglio ripetere questa cosa, domani oltre 600 deputati, quattro anni, sei mesi e un giorno di legislatura, e oltre 600 deputati incasseranno il vitalizio. Voi direte ridotto rispetto a prima, 900 euro se fanno solo una legislatura, comunque tanto, comunque una vergogna, non ce l'ha nessun italiano questo privilegio, anche se se lo sono ridotto. Bastano 4 anni, 6 mesi e un giorno di legislatura per prendere mamma per mia tutta la vita un vitalizio. Mamma mia cosa, è la realtà questa mamma cosa qua. Mia, mamma mia, mamma mia, che demagogia, mamma mia. Ma non che... è... Sentiamo Capanna. In onda su Radio 24, non dalla vostra parte, comunque per carità. Dai, sentiamo Capanna, sentiamo Capanna. Che discutiamo di queste che sono pippate. In ultima analisi sono pippate. Ma anche... l'ho dimostrato, incidono sul bilancio dello Stato praticamente per lo zero virgola. Ma per un pensionato che ne prende 400 non sono pippate vedere capito, uno come lei che ne prende più di 5.000. E beh, dove sta lo scandalo? Bischerata i giovani che non avranno la pensione. Benissimo, ottimo. Si fa riducendo le spese militari e smettendo di dire cazzate alla televisione. Ma in... fermi tutti, arriva Maria Dinolfi e dice che Rimini, Firenze, Noemi, il caso di cui abbiamo parlato prima, sempre colpa di droga e alcol. No, ma non è, è questione di droga e alcol. Gli stupri con la droga e con l'alcol, per esempio, non c'entrano niente. Insomma, poi non sono il caso di Noemi, che è quel ragazzo che era pieno di cocaina. Non lo so, ma in alcuni casi ma sì. Ma quello era in cura perché era un malato di mente, sembra, a leggere le cronache. Quel ragazzo lì, quello che ha ucciso la... Cosa cazzo c'entra? Ma non è che droghe, alcol... Era stato cioè, sottoposto dei TSO, ma chi c'entra l'alcol? Sì, certo, c'entrerà anche l'alcol, ma non... Ah, di nuovo. Moreno ricorda che il fidanzatino era strafatto di droghe ed è sempre un elemento costante di tutte queste vicende tragiche che riguardano i giovani. Siamo dentro l'incidente stradale, lo stupro di Rimini, lo stupro di Firenze, la vicenda tristissima di Noemi. Ogni volta troverete sempre alcol e droghe. Quando è che chiudete, cornuti? Grandi cambiamenti in vista? Scegli Gondrand Traslochi per il tuo trasloco internazionale. Gondrand.it vi presenta La Zanzara. Zanzarosi, giornata difficile, eh? Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171 701. Scoprirete che potrebbe anche andare peggio. Amore, sei contenta di iniziare la zanzara? No, per nulla. Come mai? Perché mi fa schifo. Allora ragazzi, il delirio di un giudice che è stato anche un giudice importante, ha fatto grandi inchieste, ex grillino, ora ha litigato con i 5 Stelle perché dice che sono diventati troppo istituzionali, diciamo, no? Si sono un po' messi la grisaglia, come si direbbe in gergo, caro Parenzo. Il giudice, lo sapete, si chiama Ferdinando Imposimato. Imposimato, certo, come no, il grande Imposimato. Il quale dice, per esempio, che il direttore generale del Ministero della Sanità è di Glaxo. Cioè, ma cosa, non lo so, magari è anche vero, però bisogna portare le prove. Che cosa vuol dire? Che uno dei grandi capi della sanità è di Glaxo, cioè appartiene a una multinazionale. Beh, porti le prove. Cosa, quindi cos'è, no, un crimine? Cos'è la camorra? Oddio, se il direttore generale del Ministero della Sanità fosse uno pagato da Glaxo, ci sarebbe un problema, naturalmente. No, cioè, è ovvio, non ma è uno, è chiaro, può essere. Ma e allora basta, ma dire? Che c'entra? Ma questo lui dice, e ma... non è che dice, che cosa cazzo vuol dire? Dai, vai, Imposimato. E come l'hanno fatta pressione? Attraverso un direttore generale che è contemporaneamente direttore generale del Ministero della Sanità e fa parte della fondazione Glaxo, che è la casa produttrice dei vaccini. Posso dirti una cosa? Io non so, mi sembra di ricordare che questa cosa qua è anche vera. Cioè, è abbastanza inappropriata come cosa. Cioè, la fondazione di una casa farmaceutica, di qualsiasi casa farmaceutica, è incompatibile con certi ruoli, secondo me. Cioè, tu sei direttore generale del Ministero della Sanità, non fai parte di nessun tipo di fondazione. Ma il delirio di Imposimato in realtà è un altro. Mercurio, autismo, effetti di... Dà per scontato il fatto che ci sia autismo, vaccini uguale autismo. Io ho letto un documento che mi è stato mandato dalla Francia ieri, scritto da medici di altissimo livello. Questo documento descrive i pericoli connessi alla somministrazione di vaccini che contengono mercurio, che possono provocare tumori, che possono provocare autismo, che possono provocare effetti devastanti. grandi gruppi massonici e paramassonici. Io credo che dietro questo, lei mi ha fatto una domanda importante, ci sia l'intervento di grandi gruppi paramassonici o massonici che già sono intervenuti per cercare di cambiare la Costituzione repubblicana e che sono stati battuti clamorosamente. Eugenetica, razza pura. Se domani dovesse nascere, entrare in funzione un Presidente del Consiglio che decide: io voglio migliorare la razza, dico, faccio un'ipotesi assurda, ma potrebbe dire: io voglio migliorare la razza italiana. È successo, in realtà, è già successo. Quindi sottostare a questa, con quello che ha detto Moro, alla nuova eugenetica, noi ci dobbiamo ribellare. Ragazzi, ho letto da qualche parte che... Voglio ricordarlo quando era lucido, diciamo. Un tale che si chiama, uno youtuber famoso, uno che va su YouTube ed è diventato famoso con i video che fa su YouTube, che si chiama Guglielmo Scilla, ha fatto un coming out, cioè ha dichiarato di essere gay, in un modo particolare, in un modo molto forte. Cioè ha detto esplicitamente: caro Parenzo, a me piace il cazzo. Cioè l'ha detto così, cioè ha detto: a me piace... Anche chi se ne frega, però l'interesse è questo, cioè c'è modo e modo di confessare volendo la propria omosessualità, se proprio uno lo deve fare, no? Diciamo che non c'è modo più diretto, dunque a me questo piace, perché non è che ha girato intorno alla cosa, sì, sono diventato gay, cioè, a me piace il cazzo. Non ho visto le più importanti telegiornali di oggi, però magari... Ma cosa che c'entra? Ma chi se ne frega dei telegiornali? Ma chi se ne frega? Ma qual è l'importanza del fatto che a sto signore, che io non so neanche chi sia, mi piace come lo dice. Le cose che mi piacciono sono le ciliegie, il sushi, i libri, il rumore della pioggia, il cazzo, Londra, D&D, le stelle, i murales, gli indovinelli. Poi le cose invece che non mi piacciono sono il caldo, le scale, la febbre, i formaggi stagionati, la figa, Charizard, lo spam, il calcio. Dai, era articolato, dai, era un po' articolato, dai. Era articolato, ha detto: non mi piace la figa, mi piace il cazzo. Io lo trovo stupendo. Davide da Padova. L'ha messo in mezzo altre cose, anche quelle. Davide da Padova, dai, Davide. Ciao, Parenzo, dimmi, dimmi, Padovano. Vai. Non sento, Enrico Milano, vai, Enrico. Sono io, sì, ciao. Dimmi. No, una piccola riflessione sui presunti stupratori. Sì. Sì, riflessione, insomma, che è come chiamano, presunti stupratori di Firenze, no? I carabinieri. Dico, loro sostengono che queste due ragazze fossero state assolutamente non ubriache, no? Giusto? Allora? Perché se no ci sarebbe... Allora dico... Ma i test, diciamo, dicono altro. Comunque, vai. No, e loro dicono, no, le ragazze erano, ma se io fossi stato un frequentatore del locale, avessi visto queste ragazze ubriache proprio da come due zucchine, e mi arrivano gli inquirenti, cioè i carabinieri, gli ispettori, la polizia in questo caso, e mi dicono: lei, secondo lei, com'erano queste ragazze? Io non lo so, insomma, ecco, io... Ma Enrico, non ho capito un cazzo. Ecco, dico, non ho capito un cazzo. I carabinieri? E chi è che dice sì, erano ubriache, secondo lei, Cruciani? Ma che vuol dire? Non ho capito niente. Cosa vuoi dire? Non ho capito. Cosa vuoi dire? Voglio dire che loro, in un certo qual modo, se facessero, potrebbero avere già vinto, perché nessuno si mette contro i carabinieri a dire... Ma chi te l'ha detto? Ma non è vero, cioè, ma non è vera questa cosa. Ma Cruciani, lei lo direbbe, scusi. Ma, lei ma direbbe, cosa? Ma cosa bisogna dire? Quando loro cercano di dire che loro non erano ubriache, andrebbe contro i carabinieri. Io, Andrea da Modena, mai rotto i coglioni. Andrea, ma io da non Modena. Ho capito niente. Però. Nulla, nulla. Andrea da Modena. Poveretto. Pronto? Vai, Andrea. Dimmi. Ciao Giuseppe, ciao David. Dimmi. Dunque, io mi ritengo un antifascista convintissimo. Allora? Convintissimo dalla nascita. Ma credo che la legge sulle icone fasciste sia una cagata fotonica. A me lo dici? È una puttanata galattica. Beh, guarda, terra. Lei si sbaglia, perché dalla reazione che vedo oggi del web, minacce, gente dell'estrema destra, beh, che c'entra quello, scusa, Piano, eccetera, questo mi conferma che, ma invece cosa è un'ottima c'entra? Legge. Ma che ottima legge? Una puttanata pazzesca. Destra che dice, non che finisce qui, festeggiate ora, che poi festeggiamo noi, no, cari amici neofascisti. Ma sono quattro coglioni. Quando la legge verrà approvata al Senato, festeggeremo noi, ma non noi, la democrazia festeggerà. Ma quale democrazia? Democrazia, ma quale democrazia? Perché l'antidemocrazia, quella non roba. Non è possibile inneggiare al Duce, al fascismo, a Mussolini. Ma chi te l'ha detto? Ma chi se ne frega? Le leggi razziali, fare il saluto romano. Questo non si può ci fare. Sono già le leggi. Ci sono già le leggi, non rompete i coglioni già con altre idiozie, dai. Se c'è una legge in più che regolamenta ancora meglio. Pensa questo, a te come sei. Vuoi portare, felici, vuoi portare in tribunale la gente felici che fa il saluto romano? Ma vattene, ma va. Certo, fermi tutti, certo, fermi. Per il tuo cervello scegli il meglio, la zanzara. La zanzara. Fidati di un miserabile. Fidati di un miserabile. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Sei in ritardo! Ma ho comprato le pizze Roncadin. Non sei in ritardo. Roncadin, nel banco freezer. Vi presento La Zanzara. Buonasera a voi da Diego Fusaro. Parenzo, ti voglio carico! E se pensi, caro il mio coglione, di usare i vocalist che faccio, ti sei già sbagliato. Vocalist, ti attacchi al cazzo, coglione. One by one hidden up my sleeve. Bravo Paco, bravo Paco, bravo Paco. Ma non è un ospite, è italiano. Ma vattene a fanculo, David. E a proposito di Paco, andiamo con i tipi da zanzara, eccolo lì, vai. Tipi da zanzara. Paco Belluno, eccolo qua, Paco, spada di fuoco, dimmi. Tu, sei una persona che non prova vergogna, tu non hai vergogna. Ti stai arrampicando su specchi, Paco, vai. Ti stai arrampicando sui specchi, perché tu sei tu, ospite spesso col stronzo di Feltri, no? Che scrivi tutto quello che vuole, sì. Bastardi islamici, ma perché non scrive bastardi carabinieri? Questo via, è via, lui, che cazzo vuoi da me, scusami. Ma va a fanculo quel pezzo di cazzo, la cosa vuoi che dico questo qua? Quando lo vedo per strano non lo guardo neanche. Ma chi? Ma tu? Ma Feltri, tu manco ti fanno avvicinare alla macchina di Feltri, arrivano due energumeni. Due energumeni che Feltri, ti buttano fuori. Ma vai a fanculo te e Feltri, tutti quanti, andate a farvi, guardati. Ma cosa cazzo c'entra due carabinieri che hanno forse stuprato delle ragazze con gli attentati? Con gli attentati? Spada di fuoco! Riprenditi, riprenditi! Riprenditi, spada di fuoco! Riprenditi, riprenditi! Penso che sei altro! Ma dai, su, dai! Penso che sei altro! Quando sei insulto non sei contento, se ti alzi come grazie per la tua riflessione, Paco, grazie! Stronzo che sei altro! Bravo, quando si tratta di noi. Ma voi chi? Voi chi? Voi chi? Noi neri. Noi neri non dobbiamo l'utilizzazione di tamassi negri. No, io ti chiamo negro tranquillamente, senza problemi. Denuncio, eh. Ma io non ti voglio mica offendere a chiamarti negro. No, tu lo fai per difendermi. No, assolutamente no. Sì, ma figurati, fai, sono no, tutto il mio tranne collega razzista. Di lavoro, il mio Paco, collega di lavoro, negro che lavora con di, me. Il negro di Belluno. Paco, il negro di Belluno. Ma io lo dico in senso positivo. Ma non puoi che denunci cosa? Non ti sto dicendo. Ma non ti voglio insultare, sei impazzito. Sono favorevole, sì, la spada di fuoco, i testimoni di Geova, la figlia che ti hanno tolto. Ma che vuoi? Non ho nient'altro da dire, guarda, ma vai a cagare. Guarda. Ma cosa vuoi da me? Non ho capito, cosa vuoi? Cosa vuoi da me? Sei un grande pezzo di cazzo. Ma di che cosa non trovo vergogna? Delle mie idee, no! Non trovo vergogna, no, delle mie idee, perché tu sei abituato ai tuoi paesi, dove non la democrazia, non sai nemmeno quello che cos'è. Non sanno quello che cos'è, vergognati. Sei una vergogna, pezzo di cazzo. Tipi da zanzara. Bene, Parenzo, ti voglio leggere una cosa. Per molti uomini iraniani la verginità è un prerequisito fondamentale per accettare una donna come moglie. Per molti uomini iraniani, ripeto, la verginità è un requisito fondamentale per accettare una donna. Dice una ragazza iraniana: ho fatto sesso anale quando avevo 21 anni. Sesso anale. Naturalmente voglio fare sesso vero e proprio, ma fino a quando non sarò sicura che il mio ragazzo mi vorrà sposare, non posso rischiare di farlo prima del matrimonio. Gli escamotage per avere una vita sessuale sono molteplici. Stiamo parlando sempre dell'Iran. Il sesso anale è diffuso tra le coppie per arrivare puri al matrimonio. Molto praticato è anche il sesso intercrurale. Sai che cos'è il sesso intercrurale? No, allora, al momento ignoro questa pratica, ti chiedo scusa. Allora, il sesso intercrurale, crurale, molti lo chiamano in modo bizzarro, la pae, non mi ricordo. Significa in realtà infilare il pene tra le cosce strette e lubrificate del partner in modo da simulare un rapporto vaginale. Dottore, dato per scala... non può parlare di telefono, dottore, quando Polchelie è tornate proprio in prima serata, Polchelie la zanzara. No, ma non c'è nessuna porcheria, è la descrizione, vedrai dopo quello dottore, che succede. Dottore, per scala a prendere l'aperitivo, ospite California Labio, dottore. No, ma tu vedrai dopo quello che succede, altro che porcherie. Comunque io tornata da lunghe ferie, mesi di ferie pagate da sindacato, tornata. Sì, certo. Infilare il pene. Si chiama il fracoscio, mi scrivono qui. Come si chiama? No, mi scrive persone, come dire, informate dei fatti. Persone informate dei fatti mi scrivono, maiali evidentemente, di cui non voglio fare il nome, ma stimati professionisti, voglio dire stimati dirigenti di aziende anche allora, importanti. Allora, come si dice? Dicono il fracoscio era diffuso anche negli anni 70. E certo, è un'alternativa. Se uno ha la non malattia che dire il nome perché è un importante se uno ha la malattia che deve arrivare vergine al matrimonio, l'alternativa naturalmente può essere il sesso anale, che però va benissimo, perché magari fosse così. Infatti non capisco di cosa si lamentano in Iran. Cioè le donne non si dovrebbero lamentare, cioè, o anche gli uomini, chi se ne frega? Non mi pareva un lamento quello che tu hai letto, sembrava più una testimonianza. Sì, anche questa cosa qui che ti hanno detto, lo stracoscio, cioè infilare il pene tra le gambe lubrificate. Perché questa cosa qui? Io non capisco perché a te questa cosa qui. Non so perché, ad esempio, oggi non ti ha colpito l'articolo di Pane Bianco sul Corriere della Sera. Posso dirti bello. Che non me ne frega un cazzo? Cioè, posso dirti non me ne frega un cazzo? Poneva la questione sulla politica estera, cioè diceva nulla, questo in sostanza. Nulla, non me ne frega niente. Voglio sentire Franco da Napoli. Voglio sentire Franco da Napoli. Franco da Napoli. Ciao Franco. Cruciani. Dimmi. Ciao, senti, con questa pratica del fracoscio è anche in uso nelle prostitute nigeriane. Che vuol dire? Qual è la ragazzi, io non conosco nessuna pratica, io conosco solo una pratica. Cioè, che vuol dire il fracoscio? No, diciamo, praticamente loro stringono molto le gambe, mozzinano molto le gambe e ti fanno, diciamo, quasi sentire che stai avendo un rapporto vaginale. Mentre tu invece stai sfregando. Chiamano gli esperti, chiamano qui. Ma non ho capito. Purtroppo dovrebbero... gli esperti chiamano. Non ho capito bene. In ogni campo. Ha ragione Franco, ci sono degli esperti in ogni campo. Il sesso deve essere affrontato come una cosa scientifica, come una cosa in cui si può essere esperti, come una cosa tecnica, non col prurito, con la cosa, con la filippina che interviene e dice che il signore è andato via. Che cazzo vuol dire? Cioè questa è la paura del sesso. Alle volte quando sente porcherie, dottore, non può parlare, datemi ordine di rispondere al telefono. Parlato con la dottoressa Camusso, CGL, detto che posso parlare telefono 4 minuti al giorno, altrimenti c'è scatta stipendio diverso, ha detto Camusso. Vabbè, Franco, CGL. Allora io ho chiamato per un'altra cosa, alle 6:30, mentre voi iniziavate la trasmissione, sono stato protagonista di un episodio per me abbastanza spiacevole. Cioè? Allora, io ho 52 anni, sono avvezzo a, diciamo, sono un, come li definisce, sono un miserabile, come li definisce, cioè? Vai a puttane. contento di esserlo, sì. Cioè, vai a puttane tranquillamente. Di strada, centri massaggi... in Svizzera, in Germania, dappertutto, diciamo, quindi diciamo, sposato, non sposato. No, Franco, diciamo che questa è la tua trasmissione, diciamola tutta. Beh, questa... diciamo che la sento quasi esclusivamente per questo. Diciamo, capito, Parenzo? Capito, Parenzo? No, io mi dispiace che questa persona non riesca ad avere una vita sessuale felice con la donna che ama e che è costretto a pagare per avere del piacere. Ma questo fa più che altro grande tristezza, più che moralismo, mi fa grande tristezza che lui debba comprare l'amore e che non possa condividere quegli straordinari momenti con la sua compagna. Ma chi ti ha detto che non abbia, che non li abbia questi momenti? Scusami Franco, tu sei, hai una compagna, hai una fidanzata, ho una compagna. Moglie, ho dei figli, c'avevo anche un'altra donna con la quale, però diciamo. Ma tua moglie che cosa sa di queste cose? Mia moglie sospetta, però non sa nulla. Però questa sera quello che è successo, purtroppo, da stasera guarderà con una luce diversa degli occhi. Chiaramente. Mi hanno fermato in località Castelvolturno, mentre giravo a una rotonda, c'erano due persone abbigliate in abiti abbastanza succinti, che mi hanno chiesto un passaggio. Sì. Evidentemente erano transessuali. Premetto che non sono bigotto, però non sono mai andato con un transessuale, perché non, cioè, appartengo ancora alla vecchia scuola, mi piace ancora quella fessurina in modo cioè non sei come quello che ha fatto il coming out prima, che ha detto mi piace il cazzo, no? No, solo faiga. Allora? Allora praticamente ho dato un passaggio a questi qua, dopo 20 metri mi hanno tagliato la strada con una macchina in borghese, polizia municipale. Questi due sono scesi dalla macchina, sono andati via. Ma mi devi credere, mi hanno chiesto un passaggio per andare al bar più avanti. Tu dai il passaggio a due transessuali per strada così a caso, cioè chiaramente volevi andare con uno, con qualcuno, con queste cose. Assolutamente qua, no, guarda, mi devi credere, assolutamente. Non, sì, ma non tu ti metti nessuno... tu padre di famiglia, lavori magari, sì, eccetera, ti metti a dare un passaggio a due transessuali per strada così. E mi hanno chiesto uno c'aveva un jeans, un leggings lungo, un altro c'aveva una gonna, vabbè, ti hanno multato, la sostanza è che ti hanno multato. Mi hanno multato, però c'era già un prestampato dove spero che le mandino a casa la multa. Bravo, ma allora questa cosa qua è uno schifo per una semplice ragione, perché diventa un'arma solo per fare cassa, perché dopo fanno leva sulla cosa psicologica, perché io ho chiesto scusi, ma io gli ho dato che le mandino a casa la multa. Le devono mandare a casa la multa con sopra scritto ecco cosa fa suo marito nelle ore libere. C'è proprio un prestampato, dava praticamente... Scusami Franco, ma tu quante volte vai a puttane, diciamo, al mese in media? No, ma non tante, sai, 4-5 volte. Beh, insomma, 4-5 volte, cioè 4-5 volte. Dipende dai periodi, cioè il periodo ormonale un po' più, sai. Ma con tua moglie scopri ancora? Sì, con un'estrema soddisfazione. Fermi tutti. Sono un puttaniere e me ne vanto. Sono un puttaniere e me ne vanto. Ciao amico mio, ti amo, ciao. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading. Vi presenta... State ascoltando un programma offerto da... Per gestire le risorse umane ci vuole experience. Scoprila su inaz.it. La Zanzara. Come Macron! Rabino, se un professore universitario fa il 30% delle assenze, non dura tanto. Vai a cagare. Cruciani, non mollare con i vitalizi. Noi con Cruciani facciamoci sentire, non mollare. Questi ci stanno pigliando per il culo, come tutti gli amici di Parenzo. Le forze dell'ordine devono essere pagate di più, non i parlamentari. Parenzo, sperando di entrare in politica, inizi già a leccare la cosa che ti riesce meglio, Parenzo, bravo. Allora, ripeto una cosa, che l'altro giorno il parlamentare di Sciolta Civica Rabino, che se cosa ha per detto? Per cortesia, ti ho già detto chiamarlo Mariano. No, cortesia. Rabino. Ha detto molto semplicemente crea una cosa. L'incidente, l'inconveniente. Ma no, i parlamentari devono essere pagati di più. Cioè, ha avuto. la faccia tosta di dire che i parlamentari... Ha ragione! No, ha torto Marcio. Ha perfettamente ragione. I parlamentari devono essere pagati di più e il vitalizio, questo che c'è adesso, non quello prima, è giusto. Capito? Devono essere pagati di più e il vitalizio è giusto. Non è un vitalizio, cioè, ripeto per l'ennesima volta, domani, nella giornata di domani, che tra parentesi è anche il mio compleanno, ci sono oltre 600 persone, oltre 600 privilegiati. E non dico altro, privilegiati. Oh, dico. Due buone notizie domani. I quali, aspetta. E poi c'è la... Quattro anni, sei mesi e un giorno di legislatura, da qui fino alla loro morte, fino a che tutti quanti naturalmente ci auguriamo la più lontana possibile, da qui fino alla loro morte prenderanno come minimo 900 euro di pensione. Ma lo stai dicendo? Non mi interessa. Lo stai dicendo come quattro fosse anni, una cosa, non mi interessa, fossero anche 50 centesimi, non mi interessa, sono quattro anni, sei mesi. Quattro anni, sei mesi, ma non sono Pappalardo, guarda, quattro anni, sei mesi e un giorno. Quattro anni, sei mesi, un giorno. E quindi... prendono 900 euro, cancellare questa roba subito. Domani oltre 600 persone, ripeto, ed è ormai l'unico motivo. È l'unico motivo per cui questa legislatura è rimasta in vita. Parte, si chiama appunto un virus, si chiama il virus dalla vostra parte. Dai, appunto, su, dai. Andrea da Vicenza, vai Andrea. Sì, buonasera, però forse stai parlando di qualcosa di diverso rispetto ma a quello. Ma è uguale, Andrea dunque una femmina, sì, ottimo. Andrea femmina. Sì, Andrea una femmina. Vai, dimmi. No, va benissimo, era per specificare. Siccome Andrea mi aspettava un maschio, invece mi è arrivata una femmina. Molto bene, sono contento. Beh, è stata meglio. Beh, insomma, in teoria era una meglio, poi dipende, insomma, in teoria. De gusti. Comunque, no? Nato da soli? No, non sia mai. Io vai. E mia compagna siamo in macchina a fare un viaggio, stavamo riflettendo sul la tua tema compagna di nel senso che sei prima. In che senso la tua compagna? Sei lesbica? No, la mia compagna è universitaria. Ah, no, ma non c'era niente di male anche in questo caso. Secondo... lui, ma perché devi scusami. Può capitare. No, dico io una cosa, Andrea, che l'omosessualità in realtà a te eccitava in realtà, diciamola tutta, sì, perché sei un vecchio sì. Maiale, vecchio assolutamente. Ormai, dire, assolutamente. Che domani compi 57 anni. Ma ne voglio dire, da vecchio maiale che sei, a te eccitava l'idea sì, sì. Che fossero due donne lesbiche in macchina che ascoltano la Zanzara. Assolutamente, a te, da morire. Ti manda in visibilità. Guarda che ce ne so, ne conosco diverse che ascoltano la Zanzara in coppia, assolutamente lesbiche, lesbiche. Scusami Andrea, la cosa è molto semplice, segui sì. Anche tu, seguite tutti se volete questo piccolissimo sì, ragionamento, sì, cioè ognuno di noi ha una componente omosessuale. Chi più forte, certo. Chi meno forte, anche gli eterosessuali hanno componente omosessuale che ogni tanto viene fuori, solo che l'omosessualità maschile ci dà fastidio, ci fa anche ribrezzo perché c'è la penetrazione. Immaginate, diceva il mio amico Montanini in uno sketch, vostro padre che monta, che si inchiappetta un'altra persona, mamma, cosa terribile, mamma, no? Se tu immagini così, e però, ma non e devo per... immaginare niente, ma perché devo immaginare, no, roba? E non però, mi se... in mente. E però, sempre Montanini docet, ecco. Se tu immagini due ragazze magari no magre con due bei corpi che si leccano tra di loro, beh insomma questa cosa qui invece ci piace. O magari che leggono un articolo di Galli della Loggia. No, l'omosessualità femminile fa meno impressione, per questo Andrea, no, ma ti dicevo, si devono per forza e leccare, sicuramente una componente fondamentale. La donna, nella donna non è così drammatico un elemento di omosessualità, non è vissuto in modo perché non c'è penetrazione. Dunque io credo che Andrea tu sicuramente hai provato una donna, l'hai provata, diciamo la verità, l'hai sperimentata una donna qualche volta o no? Ti sei baciata con una tua amica? Qualsiasi donna che mente dice una bugia, cioè qualsiasi donna che neghi, beh, questo dice una bugia. No, qui io ne conosco un sacco che non hanno mai toccato una donna in vita loro, cioè tu sei stata con una donna anche dunque? Ma credo come tantissime altre. Beh, come tantissime altre. Cioè, in che modo sei stata? Cioè, sei stata in maniera completa? C'è stato un rapporto bello, continuo? Sono aggredito. Oppure piccole cose, cioè piccoli baci, piccole toccatine, piccole cose. Spiegami. Ti trovi su YouPorn, la sezione la conosci, penso. No, chi trovo su YouPorn, scusa? Andrea? Oh, ragazzi, pronto, Andrea! Riprendete questa, dai. Allora, Vi leggo questa cosa: Unione Sovietica 20 milioni di morti, Cina 65 milioni di morti, Vietnam 1 milione di morti, Corea del Nord 2 milioni di morti, Cambogia 2 milioni di morti, Europa dell'Est 1 milione di morti, America Latina 150.000 morti, Africa 1 milione 700.000 morti, Afghanistan 1 milione 500.000 morti. 100 milioni di morti del comunismo. Quando bisogna approvare, per me è sbagliato, non bisogna approvare nulla. Comunque, quando approvate una legge sull'apologia del comunismo, ecco, questa è la risposta, l'unica risposta, ma una delle tante risposte. Quando approvate una legge, quando approvate una legge sull'apologia del comunismo, ma chi ha detto sta stupidaggine? Io non la vorrei approvare, ma il simbolo, dato che si parla di simboli, il simbolo della falce e martello è molto più, è, come dire, molto più schifoso, se volete, a livello di assassino, a livello di violenza, rispetto al fascio. Cioè, ha ammazzato molta più gente. Ma la rivincita dei contadini. Ma che c'entra? Ma cosa dici? La plebe sempre all'opera china, senza ideali in cui sperare, su compagni ideali, nostro fine sarà l'internazionale in Confindustria futura umanità. Piccola variabile abbiamo fatto adattata. Domenico da Siracusa, sì, col fatto che tu toccavi il telefono coi tasti, vabbè. Domenico da Siracusa, dai, forza. Pronto? Sì. Mia nonna in carriola. Domenico da Siracusa. Ti mando la foto. Che non Domenico, dai, su, Davide, abbiamo sentito il rumore dei tasti, non rompere i coglioni, dai. Domenico da Siracusa, dai, forza. Buonasera, Cruciani, buonasera, Valento. Dai, non può essere col cazzo, dai. Dai. Devo dirti che hai detto una cosa inesatta riguardo la pensione dei parlamentari, sì. E facendo questo, come dice Parenzo, non fai altro che fomentare, sì, la campagna. Guarda, che cos'è che non avrei detto? Scusami, ascolta, Domenico, tu sei figlio di parlamentare, sei un ex parlamentare, che no, cosa no, sei? No, io sono un medico, una persona normale. Sì, dimmi. Però dimmi. La pensione che hanno maturato da oggi, dal 15 veramente, i, sì, parlamentari la prenderanno quando avranno, l'abbiamo già detto. No, l'abbiamo già detto, ascolta la registrazione, Domenico, senti, l'abbiamo già detto ieri mille volte, i parlamentari non prendono la pensione da domani, la prendono secondo le nuove normative, ma quando avranno compiuto poco fa, ma si capiva questo, sì, ma sì, quando dici una cosa un, senti, po' più di attenzione. Sì, Domenico, questa non è Porta a Porta, è La Zanzara. Dunque, io ho detto, io ho detto una cosa molto semplice. Ho detto: maturano il diritto. Mi sono espresso in maniera, come dire, leggermente inappropriata rispetto alla Treccani o rispetto al diritto parlamentare. Non me ne frega niente, lo so benissimo. È uno scandalo, una vergogna, perché quattro anni, sei mesi, un giorno, i contributi se li autoattribuiscono. Sono sempre soldi nostri. È una cazzata questa qua. Sono loro che decidono quanti contributi. Commisurata ai contributi, non me ne frega, non me ne frega niente. 67 anni. Non me ne frega niente, ma mi spieghi perché? Scandalo. Mi spieghi perché dopo 4 anni, 6 mesi e un giorno di legislatura un parlamentare deve maturare la pensione per tutta la vita? Quando una persona normale, se fai 4 anni ma di contributi, non ma è uguale. Non è una persona normale il deputato, come eccolo, te lo devo spiegare? Eccolo, ma non è normale. Eccolo qui, ecco la verità. Ecco ma la è verità. Evidente, ma è giusto che sia così. Non è normale. Cosa vuol dire normale? Normale, perché normale Mauro da Mantova, normale secondo te? Cosa vuol dire normale? Non è un lavoratore come tutti gli altri. Deve finire questa stupidaggine. Questa stupidaggine che i 5 Stelle vanno dicendo da anni, da sono dei nostri dipendenti. Non sono dipendenti di nessuno. I politici, ecco, è giusto, non è uno scandalo pagare. Sì, vabbè. Continuate così, va, se vi piace così. Ciao, arrivederci. Ciao. Bravo. Ciao. Sì, il nostro vecchio partigiano che in questo momento ovviamente si sente esaltato da questa legge Fiano, si sente esaltato dall'idea di poter rompere i coglioni ai fascisti, ha chiamato Polegato. il ristoratore fascista ben noto non solo alla Zanzara ma anche alle forze dell'ordine. Pronto? Sì, parlo con Polegato, con Ferdinando Polegato. Sono io, Ferdinando Polegato, buongiorno. E mi dica tutto. Siamo agli sgoccioli, eh? la festa è finita. Fertig, Geschlossen, si chiude baracca e burattini, ultimi rantoli di fascismo. Non credo proprio. Sai che a me questa legge che introduce il reato di apologia fascista mi piace un casino, è proprio una figata. Io sono un vecchio partigiano, caro Polegato, un vecchio partigiano dell'associazione partigiani. Io sono fascista e sono orgoglioso di essere fascista. Ma che schifezza, mi viene da vomitare soltanto a sentire fascista. Ma non si vergogna di dire sono partigiano. Io invece, lei dice, sono partigiano e i miei amici partigiani hanno ammazzato un sacco di persone. Lei non si vergogna. No, è lei che deve vergognarsi. No, io non lei mi vergogno deve, perché lei, io non ho ammazzato nessuno. Lei deve dicendo che il fascismo ha fatto lei grandi cose. Ha Vada fatto al paese, mi denunci pure che a me non me ne frega un cazzo di quello che sta facendo. Ma io, si penta, tolga tutte quelle schifezze lei ha il cervello malato. Togliete quelle merde se non mi Lei ha qualche cosa in testa di malato. Fra poco si chiude baracca e burattini e chi si è visto. E stia attento che noi ci hanno solo rafforzato, pertanto lei stia attento. E cosa mi fate? Ultimi rantoli di fascismo. Noi fascisti non abbiamo mai fatto del male a nessuno. State prendendo soldi dalla mattina alla sera, quei soldi pubblici, i nostri soldi, per non fare un cazzo, dite di essere partigiani. Cosa siete partigiani? Assassini! Assassini! Mi denunci! Ultimi rantoli di fascismo! Vedrai come si svilupperanno! È finita! Fertig Schlossen! Finita la guerra! Avete ucciso un sacco di persone! Finita la guerra! Siete degli assassini! Assassini! Siamo agli sgoccioli, caro Polegato! Come lotta, Polegato, come lotta! Devo dire, ultimi rantoli è meraviglioso, però. Sai che c'è il nostro amico comune Targetti, che insieme al padre vende... Bisogna dire però chi è. Cioè, Targetti è un signore, un ragazzo simpatico di Prato, Imbecille. Non puoi dare per scontato tutto, è la radio questa. Vabbè, d'accordo. Una cricca di amici vengono citati. Fai tu. Allora, Jonathan Targetti è un signore che commercia. Ma lo stavo dicendo! Insieme al padre commercia, va in Germania ad acquistare divise naziste. Divise delle SS, divise delle SS e poi le porta nei mercati militari e le vendono. Cioè, divise, cappelli, cimeli delle SS. È specializzato nel commercio di materiale nazista in Italia. Questo ragazzo, insieme al padre, ripeto, poi fa tante altre cose, ora è incazzato come una biscia perché gli vogliono impedire di andare avanti nella sua intrapresa. Ma insieme al padre altro, ad esempio, ma commercia altro un cazzo mocchia. Commercia altro un cazzo, vuole continuare ad andare in Germania a comprare divise naziste e venderle in Italia, ma che cazzo volete? Non gli rompete i coglioni, vi dà fastidio, non le comprate! Ma uno si comprerà la divisa americana. Tra l'altro ti voglio segnalare che questo qua è praticamente iscritto al PD. Cioè, questo signore vende divise naziste ed è iscritto al Partito Democratico di Prato. Lo so benissimo, è un sincero iscritto al PD. Ma adesso io lo voglio chiamare, ma perché è incazzato. È una persona molto per bene, è una persona per bene. Allora, perché si deve convertire? Perché non può più vendere quelle divise? Può convertire la sua attività anziché comprare divise naziste, compri le divise americane che sono anche meglio. Ma ci sono alcuni che comprano divise americane, altri che comprano divise naziste, ma saranno cazzi loro come guadagnano i soldi? O devi essere tu, dai! Mette, la divisa nazista, io voglio vedere. Ma sono cazzi suoi, sono cazzi è uno, suoi. È uno Simone soldato. Da Milano, in Simone. Germania. Ma va, Simone da Milano, vai. Ma chi se ne frega della Germania? Cruciani, me ne sbatto dalla Germania. Cruciani, tu diffondi un sacco di balle sui 100 milioni di morti del comunismo. Ma sì, se non saranno 100, saranno 80, dai, uguale. Dove queste cifre, ma ti devi vergognare. Sono cifre che circolano da anni, dai, circolano da anni. È arrivato il comunista qua, è arrivato il comunista qua, è arrivato il comunista. Ma non dimostrano nulla. L'unica arma contro i padroni, un partito comunista forte, marxista-leninista. Non le merde trottiste che supportate voi. Che cosa serve, scusi? Un partito comunista marxista-leninista. Ma serve che vostra, ma serve che tu ti fai un lavaggio del cervello? Ma serve che ti ricoverano? Ma serve che ti ricoverano? Ma serve che ti ricoverano? No, il partito comunista. Ma che Siberia non esiste più, capito? Non esiste più il confine in Siberia, amico mio. Non esiste più. Ma che rieducazione? Ma te a calci in culo ti devono prendere. Vai a fare, vai a studiare, vai a studiare, vai Simone. Vai a studiare, studia, ma che studi? Libri di testo della Terza Internazionale, di cosa? Di Mao, dai, su. No, Stalin. Senti, amico mio, il comunismo ha ammazzato un sacco di gente, tra cui il tuo amico Stalin. Ne hanno ammazzati troppo pochi, perché la quinta colonna nazista, grazie a Stalin, è stata eliminata e Stalin ha vinto la guerra. Ah, tu sei un malato di mente, cioè tu sei ma stalinista. Tu sei stalinista, praticamente. No, io sono comunista. Ma tu sei un comunista. Ma tu sei un malato, non sei comunista, tu sei da ricoverare, esattamente come quello tu di prima, cioè sei da ricoverare. Sei di balle, ma tu devi andarti a ricoverare, non sei comunista, sei ti devi ricoverare. Tu sei io sono amico anche tuo. Tu per esempio, le cose che stai dicendo, cioè che il comunismo è bellissimo, meraviglioso, leggi bisogna avere il libro Stalin, un altro punto di vista. Ma di va benissimo, Martens, sì. Tutte le balle che sono state sull'opera di Stalin. Sì, certo, il socialismo reale va bene, che ha costruito. Va bene, d'accordo, tutto quello che vuoi. Però io penso che quello che tu dici non deve essere Stalin fosse un santo. Senti Simone, questo non è un corso di storia su Stalin. Non è un corso di storia. Se vuoi vai a farlo da un'altra parte. Io ti sto dicendo solo una cosa, che quello che stai dicendo per me lo puoi dire tranquillamente, senza problemi. Sei da ricoverare, cioè sei una persona che dici vabbè, portiamolo a un certo punto con l'ambulanza perché forse c'è qualche problema, però per me tu devi andare in ambulanza, Simone, anzi, in Siberia deve andare, altro in Siberia. Tu mi vuoi mandare in Siberia? Lui ti sta ricordando, e anche una tu cosa Parenzo, non credere che cioè, tu mi sia simpatico, perché tu che canti l'Internazionale, che cazzo canti l'Internazionale, che sei un idiota, che tu supporti il PD. Il PD è il primo nemico del popolo in Italia, e guai a te se canti l'Internazionale. Del popolo, il primo nemico del popolo. Al 25 aprile la manifestazione europea del PD, che l'Europa è il primo nemico del popolo. Scusi, l'Europa è il nazismo 2.0. Perché c'è una cricca che comanda su 60 milioni di persone. Beh, questo, anzi, scusami, questo 500 milioni, 70 lo pensano, milioni sono solo in Italia. Lo pensano, anzi, scusate, lo pensavano anche i 5 Stelle, diciamo la verità. Non ci vuole il comunista. Le 5 Stelle si vede come sono coerenti. Il signore di me è andato Salvini, al foro, in parte anche Salvini, anzi, accreditarsi al potere capitalista. Fermate il pazzo un attimo, fermate il pazzo stalinista un secondo. Una cosa, il matto l'ha detta giusta, cioè che nella nostra Costituzione il comunismo non è fuori dalla Costituzione, perché il partito comunista ha firmato la Costituzione italiana. Poi questo qui è un pazzo scatenato, poveretto, uno che si dichiara stalinista. Ma chi se ne frega? Ma io della nostra Costituzione me ne sbatto i coglioni, capito? No, ma dico, non c'ho il mito della Costituzione. Forse hai capito, io non c'ho il mito della Costituzione. Me ne sbatti i coglioni pure della Costituzione. Solo una cosa, la libertà di espressione. Sul resto non quella me ne frega niente. Grazie a quella Costituzione. Sai dove possono esprimere i nazifascisti la loro libertà di espressione? Sai dove? Dove? In Siberia. E sai qual è l'unico nazista? Ma tu non sai nemmeno che buono? Ma non sai nemmeno che cos'è l'unico nazifascista buono? Sai qual è? Quello morto. Quello morto, sì. Ma tu vorresti ammazzare tutti quelli che si dichiarano fascisti? Assolutamente sì. Questi ratti qua devono essere eliminati. Tu sei un poveraccio, tu lo sai. Sta scherzando, ma lei sta scherzando, lei è un malato. Tu sei un poveraccio, lo sai, no? Massimo da Bergamo, aspetta un attimo, aspetta, Massimo, dimmi, Massimo. Pronto? Massimo. Sì, dimmi. Oh. Che fai, Massimo? Che stai facendo? Un attimo solo, sono qua, mi senti? Sì, ti sento, dimmi. Oh. Ora mi Massimo. Dovresti sentire meglio. Allora, che cazzo dunque, io ho visto... No, fermo là, fermo. Fermi là, sia Massimo che Simone, fermi là. La Zanzara. Parenzo, ma il professore Di Massa non ha tirato fuori un esempio importantissimo. Perché parli del fatto che tu potevi finire nelle camere a gas e invece non parli delle bombe israeliane sui civili palestinesi, quotidiane, aiutati dagli americani? Parenzo, la realtà fa male, oppure fa comodo solo quando vuoi tu? Allora, eravamo con Massimo da Bergamo. Vai Simone, resta lì un attimo, vediamo cosa ti dice Massimo. Vai, Massimo. Eccomi qua, a proposito della famosa legge sul fascismo. Sì, io proporrei una cosa molto equilibrata. Visto che i comunismi hanno fatto 200 milioni di morti, soltanto 90 milioni in Russia, e hanno fatto fuori anche un buon numero di ebrei, forse non tanti quanti Hitler, ma poco ci manca. Vabbè, allora fa dire questa cosa. Ovviamente sarebbe opportuno, no? Sì. Fare nella stessa legge abolire tutti i simboli di tutti i comunismi, da Mao a Pol Pot, all'ex Urss. No, per me non bisogna, per me ragazzi, non bisogna eliminare nulla, ognuno può dire quello che vuole. È una differenza fondamentale. Luciani, io sono Massimo da Bergamo, ma se devi sparare certe stronzate in radio, evita, perché stai dicendo cazzate. Non è vero niente. I documenti dove sono? Ma dove cosa? Ma quali documenti? Hanno eliminato gli ebrei? Gulag di Solzhenitsyn, penso che Parenzo l'avrà letto, no? Vabbè, Massimo e Simone, mi avete rotto i coglioni tutti e due. Fabrizio dalla provincia d'Alessandria, dai. Fabrizio. Sì, buonasera a tutti, sentite? Dimmi. Sì, io volevo intervenire sul discorso dei politici che non sono persone come le altre. Sì. Che faceva prima Parenzo, che vorrei capire... è evidente. No, ma vorrei capire a chi ti riferisci. I parlamentari, non i politici, i parlamentari e i senatori non sono come le altre persone, è evidente. Ma che dici? Ma è una follia, ma è una follia, è una follia. È anche giusto che sia così. No, ma Parenzo, ma adesso sono d'accordo con te, in linea di teorica è corretto il tuo ragionamento, ma nella realtà di oggi non è così, perché i razzi che non sanno parlare... I vari, ma quello non c'entra niente, amico mio. Ma il punto non c'entra nulla, sono esattamente eletti, sì, ma non c'entra, ma che vuol dire? Tu stai dicendo che sono diversi dagli altri, che hanno, devono essere protetti nel loro ruolo? Esatto. È una minchiata. Gli altri hanno una tutela particolare proprio perché durante il periodo del loro mandato esercitano in nome del popolo italiano. Quindi, sicuramente, che coglioni, che palle, sono discorsi che ci fanno da anni e ci hanno rotti i coglioni con questi. Discorsi. Ma che c'entra? Ma non c'entra niente col vitalizio. Potresti fare tranquillamente come in Arabia Saudita, non c'è bisogno del Parlamento. Ma cosa c'entra questo con la protezione di un privilegio che è il vitalizio? I parlamenti di tutto il mondo, con cose diverse ovviamente, i parlamenti di tutto il mondo garantiscono diritti e soprattutto tutele diverse, ma in tutti i parlamenti democratici del mondo è così. Roberto, Reggio Emilia, vai. Poi se vuoi puoi abolirlo, se ti piace di più. Roberto, ho capito che Reggio Emilia. Roberto, Reggio Emilia, a me non me ne frega niente. C'è una differenza tra i privilegi e il fatto che uno deve lavorare come parlamentare. Dai, Roberto, sì, dai. Sono Roberto. Dimmi, Roberto, dimmi. Senti, ma voi non avete mai pensato all'eventualità in cui la guerra di Hitler con il resto del mondo avesse preso un'altra piega? Cioè? Se lui avesse vinto la guerra, pensate cosa succedeva. Noi a quest'ora, ognuno di noi avrebbe 5-10 negri che lavoravano per lui, senza nessun problema di doverli sfamare, di dover dargli il lavoro, perché lavoravano a casa loro. Scusa, puoi ripetere un attimo questa teoria interessante? Dunque, tu evidentemente hai allora una certa, non dico simpatia, ma tu ti... ti penti quasi, cioè non dico ti penti, no, perché non hai partecipato, cioè vorresti in realtà che Hitler avesse vinto la guerra, no, in sostanza, no, o sbaglio, cioè avresti preferito un esito diverso? Non vorrei, mi sono chiesto tante volte se lui non avesse fatto quegli errori che ha commesso, tutti gli ebrei, cioè ammazzare gli ebrei, aprire un fronte in Africa, un fronte in Russia, se avesse fatto una cosa per volta, probabilmente la guerra l'avrebbe vinta, perché e allora 5 anni, cioè tu dici staremo meglio a quest'ora? Certo, sì, perché dopo staremo meglio, professore? Perché staremo meglio con una vittoria di Hitler? Spiegami. Perché sistemava tutti, li metteva tutti al lavoro. Quello sicuramente, in modo anche definitivo, direi. Sistemava tutti in modo, diciamo, un po' drastico, no? Lui è un po' più definitivo, guarda. Mandava, come si dice tecnicamente, tutto in fumo proprio. Cioè, Roberto, quasi... Non so se ha capito il coglione lì al telefono, non so se ha capito il... Non era una battuta, ma la freddura, diciamo. Ecco, hai capito, Roberto? No. Sì. Hai capito. Bene, No, ma io lo dico come... No, come dal tono del sì, che... mi ricorda quando la mia professoressa di latino mi chiedeva il paradigma di un verbo, dice, lo sai, vero? Io dicevo sì, con quel tono, come per dire, speriamo non me lo chieda. Quindi non ha capito sostanzialmente un cazzo questo qui. Cioè, scusami Roberto, tu stai dicendo che purtroppo Hitler non ha vinto, perché se avesse vinto noi avremo tanti negri a lavorare per noi, è così? Ecco, cioè, certamente quelli avrebbero lavorato a casa loro, come noi avevamo le nostre colonie allora. Sì, certo. Perché dice certamente? E poi? Perché dice certamente? Cioè, dunque, purtroppo Hitler non ha vinto, questo è il risultato del tuo, diciamo... Un po' mi dispiace, dopo poi ha fatto degli errori anche lui, perché per esempio... Cioè, piccoli errori, diciamo, no? Con gli ebrei, cioè, il caso lì è successo qualcosa, per quale motivo lui se l'è prese con gli ebrei? Non so cosa sia successo. Ma non sappiamo, che cosa è successo, Davide? Per come mai se l'è prese con gli ebrei? Non lo so, se l'è prese con gli ebrei? Magari gli abbiamo rubato la moglie, non ho idea, era un po' arrabbiato e quindi ha fatto 6 milioni di morti. Cioè, qualcosa probabilmente gli hanno fatto, che lui se l'è prese con gli... Qualcosa è successo, ma anche gli ebrei devono aver fatto qualcosa a Hitler, secondo me, qualche responsabilità c'è, qualcosa che non sappiamo, perché sappiamo, certo, però magari se cerchiamo nella rete, in internet, qualcosa troviamo, no? Cioè, scusami, Roberto, io dico una cosa, sicuramente gli ebrei qualcosa di brutto a Hitler hanno fatto, che dici, per arrivare a quel punto, o no? Secondo me qualcosa gli hanno combinato, che è qualcosa di personale. Cioè, la storia non ce la racconta tutta. La storia non ce la racconta. Qualcosa hanno fatto, sai, perché se no non è possibile. Mi pare di complicato anche a me. Francamente, mi pare complicato. Ragazzi, adesso andando indietro nella storia, i romani hanno soggiogato tanti popoli e li hanno fatti stare bene. Adesso pure i romani. Che c'hanno i romani? Adesso pure i romani. Dopo, la storia si è evoluta in questo adesso modo. Si avventura pure nei romani ora. Questo storico cresciuto alla scuola del professor De Felice si avventura anche nel raccontarci la storia romana. Benissimo. Avanti. Ciao, amico mio. Ciao, Roberto. E i fenici. Torna naturalmente in questo periodo più forte che mai il peggio di Radio Calabria, fu Radio Padania. Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Allora Marin dice, uno dei conduttori di Radio Padania, cominciamo a dare del bromuro agli africani nei centri. Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Se cominciamo a dare un po' di bromuro la mattina agli amici africani ospiti nei centri pagati da voi, colazione, pranzo e cena, male non fa il bromuro, signori. Non permettere al tiranno di accecarti. Ascoltatori contro di noi, Cruciani e Parenzo, catto comunisti sinistronzi. A chi ti vuol fermare? Sali Padania. Nella blobata che vi farò sentire più tardi, non perdete la sintonia, c'è proprio Cruciani che insulta voi ascoltatrici che siete intervenuti nella trasmissione della Ruffa Popolo Sammy Varin. Venite insultati pesantemente da Cruciani solo perché dite la vostra senza filtri né censure su Radio Padania. Guardate, non sto scherzando, è una cosa veramente potente. Servi di Roma. No, libera, prima cosa. Ciao. Posso rispondere che magari mi bloggano questi due signori? Ma prego. Canto comunisti e sinistronzi. Mi dovrebbero spiegare come mai in Italia ci sono 700 moschee e in Arabia Saudita neanche una chiesa cristiana. Coglionazzi di sinistra. La tua voce. Cioè, a me coglionazzi di sinistra, poi dall'altro. Nella tempesta, come una madre. Incredibile. Ancora un altro, vai, un altro. Mi permetti di dire qualcosa a tutti lì? Vai pure. Posso. Carissimi Cruciani e Parenzo, fate talmente schifo che se foste due merde non attirereste neanche le mosche da quanto fate schifo. Ciao. La libertà. Servi di Roma, Roma fuori. Fuori. Senza dubbi né ripensamenti. Padania bella e libera. Guardavano. Servi di Roma fuori. Angelo Padova, vai. Questa sera devo dire che ho capito, dopo tanto tempo che ascolto la Zanzara, che Parenzo è convinto delle cazzate che dice. Lo pensavo un provocatore, un fine provocatore, dalla brocca di cristallo al posto dell'acqua minerale, della bottiglia di plastica, eccetera. Invece è proprio, purtroppo, e questo è il guaio di questo nostro paese, che ce ne sono tanti come lui sinistroidi, convinti delle cazzate che dicono. Come può una persona oggi nella situazione di questo paese essere, che sia giusto anche da un punto di vista proprio comunista, che prenda 900 euro al mese a 67 anni con 4 anni di contributi, con 4 anni e 6 mesi di lavoro, prendeva 15.000 euro al mese quando la pensione di anzianità di un cittadino italiano è di 516 euro. È ovvio, chiaro Parenzo, che con quei soldi non si risolve il problema. Ma bisogna dare l'esempio, non puoi spiegare alla gente che 900 euro i parlamentari li devono prendere quando mia madre... No, ma non solo per tutta la vita, scusami Angelo, ma anche per gli eredi, anche per gli eredi. Ma hai ragione Cruciani, ma il guaio di questo paese è questo, che quello che dice Parenzo veramente è convinto. Se fosse un paese in cui le cose vanno bene, che ci sia... Ma ti rendi conto i disoccupati in cassa integrazione per i quali non ci sono i fondi? L'operaio che non li prende i 900 euro? Lei forse ma stiamo scherzando? Ma lei dicendo delle cazzate? Stai dicendo delle cose orrende? I parlamentari se la pagano quella pensione. Ma la paghiamo noi con i soldi nostri, non dire cazzate! Sono sempre soldi nostri! Perché lo decidono loro in autonomia, non dire minchiate! Che pagano, lo stipendio lo decidono loro e sono sempre soldi nostri! Non è vero, non è vero! Tutto ciò che è pubblico lo paghiamo noi, anche appunto, lo stipendio, appunto, dei, ma loro, anche lo stipendio dei primari che lavorano pazzesco, negli ospedali lo paghiamo noi, cosa vuol dire? È evidente che lo paghiamo noi, è il pubblico, no? Pazzesco, siamo noi pazzesco. Che lo paghiamo con le tasse, che cosa vuol dire? È ovvio, no? Tutti i lavori pubblici sono pagati da noi. Senti, pensa che io pago anche la Raggi per fare il sindaco di Roma con ma le certo, mie tasse. A parte che tu abili a Roma, dunque. Parenzo, lascia parlare, destiniamo i soldi che di stare sul lago di Garda, non al Colosseo. Non è colpa della Raggi. Non è colpa della Raggi. Destiniamo i soldi che tu dici che i parlamentari pagano, che si versano questi contributi, li destiniamo a quell'operaio che non ha la cassa integrazione. Parenzo, questo è comunismo, questo niente. È essere di sinistra, ma coglione. Non c'entra niente. Mi fermo saluti là, a casa fermo, tutti fermo, quanti. Fermo. Piacere Parenzo. Vai, vai. Amici miei carissimi, siete in ascolto la pubblicità. Pubblicità. Sei in ritardo. Ma ho comprato le pizze Roncadin. Non sei in ritardo. Roncadin, nel banco freezer. Vi presenta la Zanzara. Naturalmente. Il mio collega canta Fascetta Nera in ufficio, posso denunciarlo? Viva il fascismo! Arrestateci tutti! Bastardi! Parenzo, sono un fascista, ma lo sai che quando dici prendete quel numero di telefono, denunciamo a quello, denunciamo a quell'altro, ricordati che ci fai soltanto un ricco rigatone. Ciao Parenzo, ciao! And that empty house. Allora ragazzi, Giovanni da Roma, dai. Ciao, ciao Cruciani, volevo chiedere a quel pirla di Parenzo se non si vergogna di fare il tirapiedi al continuo, ma lo troviamo alle prossime elezioni, come funziona? Non ho capito, il tirapiedi, cosa ha detto sto imbecille, il tirapiedi di chi? Del PD, basta, ma no, cosa, dai. Cosa c'entra il PD? Dai, dai, sempre a parlare del PD stai. Non ho mai parlato del PD, ma sei stupido? Giovanni? Paolo da Milano, vai. Non neanche telefonare, gli cade la linea, sì, dai. Sì. Paolo Parenzo, da Milano, tu, vai. Tu, Parenzo, tu e la tua amica Fiorella Mannoia, che la tournée di quest'estate, Fiorella Mannoia, l'ha fatta solo in comuni del PD. Lo sai o no? Ma che c'entra adesso Fiorella Mannoia? Ma che c'entra adesso? Aspetta. Sono gli idioti. Aspetta. Pronto? Oh. No, ma questo è l'orario in cui chiamano tutti gli idioti più concentrati. Idiota ci sei tu, pezzi, lecca culo e fango, ma sempre culo lecchi. T'ho lasciato 6 mesi fa che leccavi culo e ancora lecchi culo, ma non ti fai schifo, indegno. Beh, difendi i vitalisti, difendi. Lo vuoi pure tu il vitalizio, pezzo di merda. Tu Renzi e tutto il fango che siete. Tu Renzi e tutta la testa pure, perché tu sei tutta una cosa che adessa. Ma ci ha soccate! Devo capire che ci ha soccate, Parenzo! A chi? Pronto! Ce l'ha soccate! Mi senti? Pronto! Posso parlare? A chi è che Puffoni? A chi è che sposti? Testa di cazzo! Ti scasso tutto, ti scasso! Però cosa vuoi scassare? Cioè la testa è scassata, di cosa vuoi parlare? Oh! Oh, pronto? dimmi Giuseppe, dimmi che tu sei un signore, dimmi. Beh, adesso non esageriamo. Cioè, tu sei un signore, non sei leccaculo come quello là, quel pezzo di leccaculo schifoso. Ora che mi hanno dato pure la trasmissione alla 7, ma il signor Cairo, ma il signor Cairo si dice buone conta, si dice camisa a chi sto duogo. Ascolti, allora, ora come scendono, allora. Ora gli ascolti scendono. Fici licenziare a Paragone, il suo pezzo in merda. Fici licenziare a Paragone, fici licenziare. Allora l'hai vista la trasmissione? Scusami. Fici licenziare a Paragone, indegno, sei un indegno. L'unico che lecca il culo a Pildi sei rimasto tu. L'unico che fa vedere i servizi di Renzi sei tu. Solo tu fa vedere la Renzi. Renzi oramai è un molto più cammino. Renzi è Walking Dead. Ma lei deve bere di meno. Parenzo, come sia? Walking Dead, Renzi. Viva i vitalizi, devi bere di meno. Paghillo, Parenzo. Saluta lo stare in stalto. Hai capito o no? Viva i vitalizi. Hai capito o no? Lo ripeto ancora. Vatti nell'area che tira. Tu sei mia, così ti falsano le colore. Calma. Lo ripeto ancora, così stai male. Sì. Viva. Stai male. Io faccio stare malattia, faccio stare. No, che stai male io. Faccio stare malattia. Viva i vitalizi. Ti aspetto. Vita di sta legge, no, Parenzo, ti sto dicendo la verità, quello che pensano tutti, che sei un lurido leccaculo. Leccaculo sei. Leccaculo e morirai leccando culo, morirai, Parenzo. Viva i vitalizi, viva i vitalizi. Luciano da Roma, dai. Luciano. Perché ha chiuso? Richiamalo un attimo, volevo continuare questa discussione raffinata. Pronto? Luciano da Roma, dimmi Luciano. Ciao Cruciani, io sono in linea di massima quasi sempre in sintonia con le tue idee, però su questa cosa dei vitalizi sono d'accordo con Parenzo e ti spiego il perché. Dipendente sia pubblico che privato, io mi posso mettere in aspettativa e fare il parlamentare per 4, 8, 12 anni. Se io come partita IVA, professionista, qualsiasi cosa, mi metto a fare il parlamentare, io perdo i miei clienti, ritorno dopo 4, guarda, 8, lo 12 sai Luciano anni. Che non è mai accaduto quello che dici tu, di solito il passaggio in Parlamento crea un sacco di business per chi poi fa una professione, è esattamente il contrario, è esattamente però, il contrario, forse, guarda, non c'è alcuna giustificazione a questa roba qua del vitalizio che dura per tutta la vita. Io ho detto semplicemente che si potrebbe introdurre una piccola cosa, un piccolo paracadute piccolissimo nei primi anni, ma nei primi primissimi anni dopo la fine della legislatura, a seconda del reddito che hai, insomma ci sono tante variabili, si possono studiare tante cose, ma non sta a noi studiarle queste cose qui. Ovviamente loro non le studiano perché si accontentano dei vitalizi, è ovvio, ma l'idea che uno, perché ha fatto 4 anni, 6 mesi e un giorno di legislatura, prenda, ovviamente a 65 anni adesso, perché prima non era così, e dunque per tutti quelli che l'hanno già preso non è mai stato così, che sono andati in pensione alcuni anche a 50, hanno cominciato a prendere i vitalizi a 50-55 anni, per non parlare dei consigli regionali o altro. Ripeto, l'idea che dopo 4 anni, 6 mesi e un giorno di vita da parlamentare uno possa prendere 900 euro al mese per tutta la vita è un'idea insopportabile. Fossero anche 50 centesimi. Sì. È sbagliato. Ma scusami, non prenderai la pensione per tutta ma la vita. Ma che cosa cazzo c'entra? Ma che l'è privato? Dai, su, ciao Luciano. Ciao, io comunque, secondo me, la ratio della legge era quella proprio di consentire a tutti di poter accedere alle cariche parlamentari. Bravo, non c'entra nulla. Io ho una partita IVA, io qualora dovessi fare il parlamentare per 4 anni io potrei vedere la mia attività tranquillamente, dopo 4 anni è perso tutto. Bravo, è esattamente questo il ragionamento. Non l'ordine il dottore, non l'ordine il dottore, servizio, spirito di servizio, comportarsi come i monaci, ciao. Ma quali monaci? Ciao, ma allora ciao. Scusa. Allora, ti voglio presentare, caro David, ti voglio presentare una persona che fa un doppio mestiere, fa la prostituta e anche la pornostar, è una ragazza italiana, è una ragazza molto giovane, una ragazza di 23 anni, se non sbaglio, una ragazza di Cuneo, originaria di Cuneo ma ormai residente a Torino, ha passato anche un periodo in Giappone. E il suo nome d'arte qual è? Me lo dice lei stessa. Qual è il tuo nome d'arte? Yuki-kon. Come? Yuki-kon. Yuki-kon. Esatto. Come stai? Come stai? Grazie, bene, grazie dell'invito. 23 anni, caro David. Tu vorresti che tuo figlio abbia 23 anni? Non ho capito cosa vuol dire il nome suo. Non ho capito cosa vuol dire in italiano. Ha un significato, nel senso che comunque Yukiko di per sé vuol dire bambina della neve, però non è legato al fatto che a me piace la neve o che è un soprannome. A che cosa che è legato? Al fatto, comunque... che hai la faccia, al fatto che hai la faccia da bambina? A che cosa è legato? No, è un soprannome che è rimasto nel corso del tempo, io comunque avendo, diciamo, sempre un interesse per il Giappone fin da quando schella, diciamo. E i miei amici ai tempi comunque è rimasto Yukiko, prima c'era anche un altro nomignolo. Ma è vero, scusa, come ho letto. Hai pensato di fare ad esempio il magistrato? Evidentemente non avrei preso una. Cioè, tu quando hai pensato? Quando hai pensato? Perché ho letto delle cose incredibili oggi su un'intervista su un giornale, credo che fosse Libero. Però dimmi una cosa: quando è che hai cominciato a pensare di fare la escort? Perché la tua è una vocazione praticamente, o no? Sì, diciamo che comunque io lo ritengo il modo più adatto per me per esprimere, per mandare il messaggio che vorrei, che voglio mandare, messaggio? Che comunque è un messaggio di bene, perché io mi metto a servizio, a disposizione delle persone che devono comunque essere grate del fatto che io... Cioè tu lo fai per gli altri, non ho capito. Lo faccio anche perché comunque ne traggo sicuramente un appagamento personale, se non potrei che fare tipo altro. Di appagamento? Economico o anche sessuale? E anche economico, perché sicuramente dal momento che faccio una cosa particolare e espongo il mio corpo in primis, al di là delle protezioni, anche quello che ho dentro è molto esposto, comunque si crea un'intimità particolare, non può essere un servizio sottopagato, mi dispiace per tutti i lavori che sono sottopagati, infatti nell'intervista il messaggio era un po' quello che io non mi accontento dei 600 euro, non è così. È che io non trovo giusto che le persone... Che uno vende il proprio corpo per poco, no, per poco. In generale, per tutti i lavori, che una persona comunque dedichi la sua vita, gran parte del suo tempo al lavoro, spesso comunque un lavoro che non sceglie e sia pure sottopagato, non è accettabile a livello morale per me. Cioè tu per un'ora di sesso quanto chiedi per un'ora di sesso? Diciamo che minimo 250 euro comunque. Minimo, perché uno dovrebbe scegliere te non per è 250? Non tanto, è stesso a guardare, comunque ci sono ragazze che hanno tariffe altissime, no, questo certo. È il mio contesto. Perché uno dovrebbe scegliere te per 250 euro e non per esempio una, non so, per 100 euro? Cioè, perché scegliere te? Qual è la tua caratteristica? Il fatto che hai una faccia da ragazzina, il fatto che sei brava, sì, sei, in che cosa sei... Scusa, sicuramente le persone vengono da me perché non cercano una donna che nel campo comunque rappresenta un certo tipo di stereotipo, secondo me. Un altro tipo di bellezza anche, per la carità, non vicino al mio. Quindi comunque di sicuro chi apprezza la tettona non va a guardare, se non magari per curiosità comunque. Perché tu hai le tette e poi, piccole? Sì, io porto una prima, modesta, insomma, non sono magra, quindi non ho intenzione di deformare il mio corpo in qualche modo. Scusami una cosa, ma tu preferisci clienti giovani o clienti più anziani? Ecco, quello che comunque c'è scritto nell'intervista ha dato un dato molto preciso, i 70 anni. No, ma dimmi così, al di là dell'intervista, dimmi tu. E praticamente io penso, questo è il mio pensiero, poi... Sì. L'ho appurato che le persone più mature comunque stanno a apprezzare di più un momento, quello che si crea in questo momento, mentre il ragazzo giovane comunque ha anche tantissime altre possibilità nella vita, diciamo, di espandersi, di avere una no, vita. No, ma tu che cosa preferisci? Che cosa preferisci come cliente? I clienti, cioè... più adulti, sì, più maturi, cioè, comunque. Che ne so, un sessantenne, persone... qual è quello che è più, dai, più vecchio dai, che è venuto? Dai 35 anni in su, ecco, i ragazzini più che altro secondo me possono evitare di accedere a questo servizio. Beh, oddio, ci sono un sacco di ragazzini, che sono curiosi anche per divertirsi. Potrebbero coltivare una vita sessuale più interessante, comunque senza... La trovo una cosa più da persone. No, però scusi, mature, adesso questa va, per carità, le sue tariffe, queste cose. No, interessante qui, le tariffe, scusa, intorno però ai 250 euro all'ora. La sua famiglia come ha preso questa drammatica notizia? Perché ma perché io... drammatica? Addirittura, mamma mia. Ma lui no, è molto da questo punto di vista. Io sono padre di tre figli. Certo. Se mi capitasse una cosa del genere, per me sarebbe un colpo terribile. Però per carità, ditemi pure moralista, non me ne frega niente, no. Sono sincero. E probabilmente lei ha seguito i suoi figli comunque in un modo da poter dire ok, mia figlia ha avuto altre possibilità, ecco, io le potevo avere, potevo crearmi qualcos'altro, potevo fare la escort nel mentre che sto a pagarmi l'università, se avevo altre ambizioni, se volevo fare il magistrato. Ecco, ma esempio. Tu invece che cosa invece, cioè, tu volevi fare la escort? No, allora la porno io volevo star, fare la porno star e la volevo fare in Giappone perché comunque sono cresciuta. Cioè uno a un certo punto a 14 anni, a 15 sicure... anni, a 14 anni, a 15 anni gli viene in mente di fare la porno star in Giappone. No, allora rimango affascinata da quello che io vedo che riescono a trasmettere queste attrici che mantengono una certa naturalezza. Attrici, ma non è normale però, cosa vuol dire? Ma è normalissimo, perché? Recitano ma perché uno un non può... recitano una scena... Ma quale attrice? Margherita Bui è un'attrice, Jasmine Trinca è un'attrice, ma di che cosa parla? Ma come fa a dire affascinata da quelli? Ma ok, la dis... Ma non è solo così, non è solo così. Ma ragazzi, dai, allora, fermi lì un attimo che torno con Victoria Yuki, 23 anni, Asti, abita a Torino, passato in Giappone anche se ha solo 23 anni, prostituta e anche attrice. Chiedo scusa, pubblicità? Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading. Vi presenta... State ascoltando un programma offerto da... Per gestire le risorse umane ci vuole experience. Scoprila su inaz.it. La Zanzara. Gli amici miei mi hanno sempre preso per il culo perché io mi faccio una pippa e ci metto un'ora e mezza. Avevo ragione io. No, ma l'altra sera il professor Bossi parlava di pressione leggera sul glande, ma il fatto di essere circoncisi, questo cambia qualcosa? Ma la domanda importante è, i figli di Parenzo sono circoncisi? Boh. Questo è interessante, puoi dare anche questa notizia, eh? Puoi anche diffondere urbi e torbi. No, mi pare stra-evidente. Sono circoncisi. Ma certo, è evidente, come il padre, come i nonni, come chiunque, ma è ovvio. Allora, ma siamo anche così clamoroso, adesso capisco che domani libero potrebbe farci l'apertura, no, su questo. Ecco cosa fanno, ecco cosa dicono i circoncisi, e mettono i miei tempi. No, ecco cosa, ecco, che... ecco cosa no? ha fatto Parenzo ai figli, li ha mutilati. Ecco. Sì, ecco, sì, appunto, meraviglioso, hai suggerito una dopo, pure, ecco, no, ecco come parlano i circoncisi, difendono i negri. Dici, ma veramente, perché non è detto che tutti lo facciano? Allora, siamo in collegamento con Yukikon. Come siete incredibili, siamo in collegamento con una prostituta, con una escort, non si può dire prostituta. Ma qual è il problema? Non ho capito. Ah, si può dire anche di peggio, volendo. Anche puttana, se ti dicono puttana ti offendi? Esatto, quello che tu attribuisci. Siamo al telefono con una escort. Dipende dal contesto, ecco. Se ti dicono puttana ti offendi? Ragazzi, però dobbiamo parlare uno per uno, eh. Se ti dicono puttana ti offendi? Dipende dal contesto comunque. Se io sto scherzando con un mio amico, certo, e c'è una certa confidenza, va bene, altrimenti cafone chi lo fa comunque. Vabbè, ma se lo dici in senso negativo, ma è un dato no? di fatto che io faccio la prostituta comunque, chiamiamola, esatto, come, cioè, vogliamo, ma fai la prostituta, accetto, se, uno, se uno ti dice fai la puttana in senso, come dire, non negativo, uno lo deve accettare, anche quello. Lo guardo come per dire, cioè, forse mamma un po' di educazione se la poteva anche insegnare. Vabbè, dai, la puttana è un termine, è un bel termine anche, ci sono molte, ripeto, donne che si sentono, è un termine un po' dispregiativo, però. Cioè, io non ho capito, quando è che hai iniziato a fare l'attrice porno? L'attrice porno quando sono andata in Giappone, quindi 2 anni fa circa. L'hai fatto solo in Giappone o anche in Italia? No, ho fatto anche alcune cose in Italia. Adesso ad esempio andrò alla fiera a Barcellona, alla fiera erotica. Però diciamo che comunque il contesto europeo in confronto, ecco, contesto europeo. Certo, ma esiste anche, ecco, qua il contesto europeo. Allora, contesto europeo. Devi sapere, Parenzo, che mi del segnalano porno, uno del porno, del porno. Un nostro grande ascoltatore che è Claudio Borghi, contesto, come sai, contesto europeo. Dice Claudio Borghi della Lega, che è l'economista. Abbiamo la signora Juncker del porno. No, ma guarda che vabbè, no, non lo dico perché poi mi do troppe aria. No, no, però no, comunque, ma Dimmi. Secondo me è una funzione sociale. Cioè, secondo me Yukikon, sì, esatto. Ti senti di avere una funzione sociale? Molto, sento di comunque chi vuole recepire, sì, il messaggio ha l'opportunità di riflettere dopo che è stato con me, non solo no, di ma questo vuoi curare, cioè, io, che ne le ho chiesto. Ma riflettere su cosa? Solo. Scusa, riflettere su cosa? Su tanti aspetti della vita, anche sul fatto che una ragazza giovane come me, al posto che trovarsi fidanzata e starlo nel suo letto tutte le sere, ha deciso di, e con una voglia comunque di mettermi a disposizione, non solo tanto per campare, tanto per fare, perché si può fare un po' tutto nella vita con quella filosofia, comunque una voglia di mettermi a disposizione degli altri, e io voglio percepire la gratitudine nelle persone che vengono con me. Cioè, vuoi farle godere? Beh, quello al di là dell'aspetto fisico, spero che comunque, altrimenti non tornano. Quello Ma quanto guadagni al mese? Quanto guadagni al mese più o meno? Non tengo un conto, devo essere onesta, comunque io vabbè, non più o meno, posso dai permettere determinate cose, io guadagno bene, ma sicuramente, ecco, metto da parte qualcosa al mese, ma devo dire che spendo tantissimo. In che cosa? Mi faccio girare quello che è, mi dà una tipo? Vita piacevole, anche tipo? Solo per dire scarpe, borsette, anche solo per dire, se vogliamo vedere la parte più materiale. Senti, tu hai cosa. Detto che non, sì, non ci stai a sgobbare tutto il giorno in un call center per 600 euro al mese. No, non ci sto a innanzitutto a diminuire il mio potenziale, che io sento di poter esprimere così per ora. In col questa, sesso, a te, in piace, a te piace il sesso? Sicuramente, se no sarebbe un po' troppo una forzatura. Vabbè, ma sai, non è mica scontato, cioè... Sì, però ad esempio come c'era scritto, io comunque non punto, ad esempio, non è che non voglio venire, che non punto a venire io nell'ora. Se comunque c'è voglia di dedicarsi anche a me, io so come. Cioè, no, non hai un orgasmo, non hai orgasmi. No, ne ho, ma diciamo che se uno vuole comunque dare priorità a se stesso, è giusto che dal momento che paga sia lì per far godere me. Ecco, io ti posso dire quello che mi piace di più, di meno, posso aiutarmi. Certo, devo vivere la cosa in modo piacevole, quindi faccio di tutto. E che cos'è che ti piace di più, per esempio? Cos'è che a una prostituta piace di più nel sesso, a una come te? Non lo so, nel senso, le mie colleghe sono diverse da me. No, a te, cosa piace di più? Le mie colleghe. A me piace appunto... come le devo chiamare, insomma, le mie, certo, colleghe. Ragazzi, però diciamo un attimo le cose come stanno. Colleghe, sono colleghe, ragazze, sono colleghi di lavoro, colleghe. Comunque adesso lasciamo stare la sua famiglia. Ma perché quello non è un lavoro? Non è un lavoro questo qua. Ma sì, ma adesso dai, ma questa trasmissione qua è l'elogio della prostituzione, ormai è diventata l'elogio della prostituzione. Ma certo, certo che è l'elogio della prostituzione. Un'altra cosa ovviamente, no? Credo, mi auguro. Dipende, perché comunque sicuramente nella vita spero mi si porranno davanti altre opportunità, ma devono comunque darmi l'opportunità allo stesso tempo di esprimermi in un modo più umano. Ma a casa sua come hanno preso questa notizia? E di non dovere comunque dare conto a nessuno, perché io non ho un pappone, non ho qualcuno che mi dice come fare, quando lo devo fare, come. Ma a casa come l'hanno presa questa notizia? Quando a casa sua fanno delle cene con degli amici, a un certo punto dice, adesso arriva mia figlia, ah ciao cara, no, che lavoro fai tu? Ah, dice, ma io faccio l'insegnante e tu? No, io lavoro alla radio e tu? Io faccio la puttana. Ah, dice, interessante. È un po' bizzarro immaginare una situazione del genere, ovviamente non avviene, anche perché comunque io ho avuto un rapporto distaccato dai miei genitori e da mio padre, particolarmente al di là quello che comunque ho iniziato a fare poi in futuro, quindi lo sanno quello che fai o no? Per forza di cose comunque sì, ma diciamo che mia te mamma ne freghi. Sommato è anche capito, cioè non si può giudicare sua figlia per quello che fa, e tuo padre? Per quello che è. Mio padre appunto con lui non ho rapporti da prima che iniziassi anche comunque la mia carriera in Giappone. Fratelli, beh, insomma, i miei fratelli più grandi mi hanno anche detto fai quello che ti rende più felice, certo non lo possiamo approvare, l'importante è rispettarlo comunque, rispettare quello che sono, non quello che faccio. Senti, qual è il tuo tabù? Cioè, non mi hai detto una cosa innanzitutto, che cos'è che ti piace di più sessualmente, cioè che cos'è che ti provoca piacere sessuale? A te provoca piacere vedere comunque quando si crea un... Non so neanche come spiegarlo, perché poi è una cosa spirituale, forse. Cioè, qualche volta si crea un feeling che va... Esatto, poi io adoro i giochini, adoro i vibratori, su questo sono onesta, quindi comunque... vabbè, adori... È una notizia che mi fa svoltare la serata, le 20. Beh, a me sinceramente sì, cioè che la signora... Blocchiamo le rotative del Sole 24 Ore. Allora, Yuki Kon... Non lo pretenderei mai. Piacciono i vibratori. Invece i tuoi tabù quali sono? Ecco, ad esempio io non condivido più che altro nella parte del porno, perché poi nella propria vita privata, comunque finché si è consenzienti e si creano delle situazioni giuste reciprocamente, ok, ma ad esempio l'anale nel porno non è sano, non è giusto il fatto che una ragazza come me comunque sia... Perché non si tratta di rapporti anali normali o comunque... Insomma, l'anale è anche una questione mentale. Cioè, violento, io dici? È violento? Violento, ma al di là dell'anale, se si arriva a fare la tripla anale, perché forse c'è qualcosa di profondamente sbagliato in tutto ciò, perché se uno volesse veramente avere... Cioè, provoca dei danni, dici te. Perdonami. Al di là dei danni che provoca, se io veramente voglio fare ciò, non ho bisogno di telecamere e produzione. Mi trovo tre bei ragazzi. Sì, ho capito. E lo faccio. Se lo faccio lì è perché qualcuno mi ha fatto capire che magari ci pago meglio l'affitto. Questo non è giusto, perché il prolasso. Vabbè, ho capito, però la differenza con quello che fai tu non è che sia tantissimo. Ognuno sceglie no, quello che. No, è abissale, ma io non ce l'ho con le ragazze, ce l'ho col sistema che ti obbliga a fare ciò. Io e poi no, sesso sempre protetto? Sempre protetto sesso? Nel porno no, ci no sono nel porno no, nel porno analisi. Nella prostituzione sì, anche l'orale. E la richiesta, anche l'orale, uno che ce va a fare pure l'orale, ma sei matta? Si trova una fidanzata altrimenti, pazienza. Cioè sesso orale coperto è una cosa assurda. Sesso orale coperto, poi adesso dal suo punto di vista la signora al telefono, dal suo punto in collegamento, dal suo punto di vista ha ragione, sta finalmente mandando un messaggio anche... Scusami, ma secondo te chi lavora una ragazza che lavora e guadagna 500 euro e si fa un mazzo così in un call center eccetera è una sfigata? No, assolutamente. Però tu non, non ti dia un'altra possibilità, perché purtroppo in certe situazioni o vai nelle vie illegali per fare soldi oppure ti accontenti, ed è lì che nasce un qualcosa che per me è sbagliato, magari gli altri comunque riescono a conviverci, io non lo trovo giusto. Senti, la richiesta più assurda che ti hanno fatto qual è? Ad esempio quella che c'era scritta di un'occasione in cui ho consegnato le mie feci in una scatoletta a una persona che non so cosa ci ha fatto, hai consegnato le tue feci e le ha portate via. E quanto ti ha pagato per questo? 150 euro, ma questa è una cosa che mi è successa proprio agli inizi, così io la trovo simpatica, tra virgolette, perché comunque c'è stato un rispetto da parte di questa persona. Beh, simpatica, consegnare una, così... una scatola di feci a qualcuno, ma per 150... Ma me l'ha chiesta lui, io mica l'ho obbligato. Beh, cioè, certo, lui... certo che te l'ha chiesta lui. Questo. Quindi, va bene, Yuki, con la vita di una pornostar e Parenzo, prostituta di 23 anni. Di 23 no, ecco, anni. Mi pare questo dell'età non l'abbiamo calcato, evidenziato a sufficienza. Vabbè, a 23 anni. Mi pare una storia assolutamente drammatica. Ma che drammatica? No? Hai letto, hai sentito. Ancora tempo di cambiare volendo, ma sai quante volte. Hai sentito una voce drammatica? Hai sentito una voce triste? Hai sentito qualcosa di drammatico? Non mi pare. Mi sembra drammatica. Senti, ma è vero? Triste, scusami, Yuki-kon, sì. È vero che tu sei un'ammiratrice del signor Claudio Borghi della Lega? Io ho interagito con Claudio Borghi perché mi ero chiusa con le cose del signoraggio bancario. Così. Cioè, mamma tu sei mia. No euro? Sei no euro? Sì, diciamo che comunque non mi interesso in modo così attivo di politica, ma sicuramente. Beh, però sei no euro. Come sì. Sei no euro, sì, sì. Capito Parenzo? Sì. Abbiamo la prostituta, 23 anni, pornoattrice. Vabbè, ma questo mi sembra anche abbastanza conseguenziale. Non comunque non sono cose di cui io mi posso capirne. Comunque ammiratrice del signor... Sembra anche abbastanza coerente questo, figurati. Ammiratrice del signor Borghi, anche no euro. Che c'entra coerente? Perché è prostituta, non è che sei matta. No, per carità, però insomma in linea con quello che ha studiato e quindi è per il no euro, mi pare evidente. Ciao Yuki. Ciao ragazzi, e viva la libertà, serata. Anche la tua di fare il cazzo che ti pare, okay. al di là dei moralismi, Parenzo è un moralista, vede tutto nero in queste cose. Se ti piace continuare pazienza per lui. Sì, se ti piace continuare a fare. Ma non vedo nero per niente. Io vedo nero per niente. Io non so se vedo nero perché non so se è depilata. Vedo nero. Ti ricordi un film famoso? Vedo nero. Sì, non so. Vedo nero. Sei depilata, Yuki? Sei no, depilata? Sono naturale. Capito, per cui ce l'hai pelle. Ciao. Ciao ragazzi, bella. Lorenzo da Prato, Lorenzo. Sì, ciao. Dimmi caro. Molto no, nulla, io volevo rispondere a Parenzo perché sono un po' perplesso. Mi sembra molto moralista nei confronti del sesso, delle prostitute. Cioè, io trovo che facciano un servizio sociale utile. Si pensa anche a quei poveri disgraziati. Un altro che non l'ha mai vista se non a pagamento, eccone un altro. Sì, certo, ok. Dicevo, praticamente lei, quei signori che hanno dei figli handicappati, che magari hanno la testa che ragiona per ogni figlio handicappato, che se non ci fossero queste donne a soddisfarli sessualmente o meno. Ma io sono d'accordo con te, ma al di là dei disabili, spesso le prostitute hanno una funzione sociale. Utile, ma non sempre, naturalmente, altre volte sono lì, è un do-ut adesso come in tante cose, inutile, basta con questi moralismi parenziani. Adesso moltissimi sindaci mi hanno detto che a Firenze adesso vogliono punire i clienti, basta con questa storia. Basta. Questi vecchini forini, gli muore la moglie, non sanno che fare, poracci, magari sono in pensione, ma vai, se fanno una chiavata e male c'è, e che tu gli dai fare le foto, mandarle a giro, fargli multe, rovinargli, ma perché? Cioè, ciao Lorenzo, ragazzi. A domani, ciao. Mi vergognavo di dire che avevo fatto un calippo. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8, lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.